Euroreportage. Verso le elezioni europee, nel cuore del Nord-Est, di Sergio Nava. Sono le 6:20 del mattino, ci troviamo a Milano, stazione centrale, con i primi treni dei pendolari che partono. Iniziamo da qui, da Milano, un viaggio che ci porterà in diversi paesi europei per raccontare come l'Europa, come i suoi cittadini si preparano alle prossime elezioni e quali speranze ripongono in un continente che dopo tanti anni di crisi deve necessariamente ripartire. Prossima tappa del nostro viaggio, Padova. Il Frecciabianca sfila rapido tra i campi della pianura padana, puntellati dalle villette basse e dai capannoni, simbolo di un'altra era geologica, quella dell'industrializzazione galoppante. Altri tempi, tempi di un'Europa in costruzione, allora si chiamava Comunità Europea, tempi dell'Italia del miracolo economico, dell'alta inflazione e della svalutazione competitiva. Poi è arrivato l'euro, moneta senza una vera politica economica. Più o meno contemporaneamente la globalizzazione, infine la crisi che ha messo in ginocchio mezza Europa. Le banche hanno chiuso i rubinetti, i pochi imprenditori che avevano capitale proprio e che lo hanno investito puntando sui mercati esteri sono sopravvissuti, gli altri chiudono o arrancano e l'Italia si è scoperta piccola, strutturalmente fragile e provinciale. Oggi vi raccontiamo l'Italia che si prepara alle elezioni europee in un reportage che si focalizza in particolare sul Nord-Est. Lo faremo da due angolature, gli imprenditori e i cittadini. Sondaggi recenti di che solo il 29% degli italiani è europeista, un calo netto che li avvicina al 27% degli anti-europeisti, in mezzo alla vasta area grigia degli eurocritici. Specchio ne sono i due imprenditori di Imprese che Resistono, associazione nazionale di piccole e medie aziende che non vogliono chiudere o delocalizzare, 150 associati nel solo padovano. Incontro due loro rappresentanti in un bar del centro città. Siamo qui a Padova, prima tappa del nostro reportage verso l'Europa che si prepara alle elezioni europee. Padova, cuore produttivo del Nord-Est, siamo qui con Lucio Carraro, referente per Padova e per il territorio padovano di Imprese che Resistono, e Cristian Migliorin, associato di Imprese che Resistono. Iniziamo con voi a parlare di come vedete innanzitutto l'Europa. Lucio Carraro, come si sente? Gelato mi sento, perché l'Europa si sta dimostrando solo una grande burocrazia, una macchina che produce solo leggi normative, cui dobbiamo adeguarci seduta stante, e che quindi diventa un ulteriore costo per la nostra produttività. Cristian Migliorin? Entrare in Europa poteva essere veramente, può ancora essere, una grande occasione anche per l'Italia, però bisogna unificare le basi prima di unificare, che ne so, la moneta. Bisogna unificare la cultura delle persone, di chi in Europa ci vive a livello di popolazione, poi pensare agli strumenti di pagamento e a tante altre cose, altrimenti questa Europa resterà un'Europa solo sulla carta. Si dice che potrebbe esserci una ondata euroscettica. Lei nel Nord-Est la vede, la sente? Direi nel Nord-Est in modo particolare, dove ci sono già varie associazioni che parlano di secessione del Veneto stesso o di altre regioni da quello che è l'Italia. La stiamo già vivendo questa ondata euroscettica in realtà. Sarà da vedere dove porterà. Quanto si è aggravata negli ultimi anni con la crisi la situazione qui nel padovano, Lucio Carraro? La situazione è sotto gli occhi di tutti, abbiamo le famose zone industriali desertiche, vediamo anche varie case nel contesto agricolo rurale che una volta venivano definiti rustici e venivano venduti, ristrutturati, tutti abbandonati. Quanto ha sofferto la crisi nella sua azienda? A noi abbiamo avuto un calo abbondante di un 50-60% di lavoro. E Cristian Migliorin? Le do due numeri al volo. Noi eravamo in un organico di oltre 20 dipendenti, siamo rimasti in 6, i più stretti, quelli di più vecchia data. Da un fatturato che superava i 2 milioni di euro siamo passati a 500-600 mila euro. Meglio anche, perché è inutile riempirsi la bocca di cifre da milioni che poi a fine anno, quando vai a guardare, quasi hai fatto dei debiti. Quindi meglio poco ma buono. La prossima tappa che faremo sarà Klagenfurt in Carinzia, che insieme alla Slovenia è uno dei paesi che più attrae o cerca di attrarre imprese italiane. Allora chiedo a Lucio Carraro quanto questa sirena attira imprenditori che delocalizzano. Il richiamo è grande, soprattutto dal versante burocratico, non solo tassativo. perché se uno riesce in brevi tempi ad aprire un'impresa ha tutta la ragione di andare all'estero. Questa è una considerazione che però può essere valida per prodotti a basso valore aggiunto o che non hanno un impatto produttivo sul territorio. Chi si occupa di servizi deve o comunque è costretto a rimanere qui sul territorio nazionale. Molti vostri associati hanno lasciato il Veneto o Padova o il Padovano per trasferirsi all'estero. Più di qualcuno si è trasferito anche già tempo fa in Romania, poi addirittura in Moldavia, poi vanno ancora più a est. Sono molte le imprese che hanno smesso di resistere. Troppe. Dalle imprese ai cittadini, l'Università di Padova è uno dei poli di eccellenza della città veneta. Il terzo ateneo più antico d'Italia, anno di fondazione 1222, conta oltre 60.000 studenti. Quale miglior luogo allora per indagare l'europeismo dei giovani? Lo facciamo con un docente universitario di origine proprio padovana. Ci troviamo qui all'Università di Padova con Alessandro Rosina, professore di demografia all'Università Cattolica di Milano. Proprio a febbraio 2014 ha finito di esaminare i dati relativi al rapporto giovani dell'Istituto Toniolo relativi a come i giovani italiani vedono l'Unione Europea. Sì, attraverso questo approfondimento che abbiamo fatto nel rapporto giovani emerge un quadro abbastanza interessante, perché vede da un lato un po' di atteggiamento critico che un po' è diffuso e trasversale un po' a tutta la popolazione italiana, però quello che è interessante è che da parte dei giovani c'è un'apertura di credito rispetto al progetto europeo, e soprattutto poi se si confronta l'Europa con le istituzioni italiane si vede come l'Europa sostanzialmente sia, anche se di poco, promossa, mentre i partiti del Parlamento italiano ottengono una forte bocciatura da parte dei giovani. Quindi comunque l'Europa è un punto di riferimento anche esterno a cui insomma rivolgersi. Piace però ai giovani italiani l'Europa così come oggi? Così come oggi no, perché il 70% dei giovani la vede attualmente come un insieme soprattutto di parametri e vincoli burocratici. Però ecco, quello che è interessante è che quello che auspicano è non tanto il tornare indietro o uno scetticismo fine a se stesso, ma un rilancio del progetto, tant'è che la grande maggioranza dei giovani auspica addirittura che si vada verso gli Stati Uniti d'Europa e quindi addirittura un progetto che diventa ancora più solido, ancora più forte. Ci troviamo nel nord-est, abbiamo già visto come le imprese del nord-est siano sempre un po' tentate dal lasciare l'Italia e andare nei paesi confinanti come Austria e anche Slovenia. È una tentazione che hanno anche i giovani qui nel nord-est. Beh sì, quello che è interessante è che l'area da cui si parte maggiormente per guardare all'estero è proprio il nord-est. Alessandro Rosina ci fornisce l'idea. La tappa successiva è l'antenna Eures di Padova, a soli 5 minuti in auto dalla stazione, nella sede della provincia. Eures è la più grande rete di agenzie pubbliche per il lavoro. Aiuta cittadini, spesso giovani, a trovare lavoro all'estero e aiuta pure le imprese a individuare i profili giusti di lavoratori oltre confine. Qui incontriamo Giulio, 28 anni, laureando in giornalismo. Ha appena concluso il colloquio con la consulente Eures. Gli chiediamo come vede l'Europa dal Veneto. La vedo un po' male, perché ho l'impressione che il fattore economico superi sempre il fattore umano o culturale, nel senso chi la fa da padrone dal punto di vista economico come la Francia, soprattutto la Germania, protegga molto più i propri interessi, giustamente dal loro punto di vista, e quindi diciamo che le nuove generazioni sono molto più unite di quello che si può pensare culturalmente quando si va all'estero, però dal punto di vista burocratico istituzionale si è completamente slegati, secondo me. Tu dove vedi il tuo futuro? Lo vedo purtroppo all'estero. Ma la gente come considera l'Europa oggi? Un vero spazio comune integrato dove cercare lavoro o come un'uscita di emergenza sempre più necessaria? Pensate che in soli 2 anni, è più che raddoppiato, sfiorando quota 7.000 in 12 mesi, il numero di utenti del servizio Eures nel Padovano. Giorgio Santarello, dirigente del settore lavoro e formazione della provincia di Padova. Quello che vedo è che mentre nei primi anni abbiamo avuto, sì, sporadicamente persone che si interessavano nel muoversi anche all'estero, questi ultimi 5 anni abbiamo avuto una popolazione, tra virgolette, soprattutto giovanile, che si è accorta delle opportunità offerte dall'estero, ma non solo opportunità di lavoro, anche di opportunità di scambio, di conoscenza, eccetera. Per cui si sono messi a studiare le lingue. Quanto è forte il sentirsi cittadini europei in questo? C'è uno studente del nord-est, ormai si vede... È molto forte, soprattutto nel nord-est, no? Che è un po' il passaggio verso l'Europa centrale e l'Europa dell'est. I giovani si sentono molto coinvolti nella costruzione dell'Europa, però di un'Europa che dovesse essere non solo economica ma anche politica. Un'Europa che cercasse in qualche modo di riportare le buone prassi, gli standards che hanno molti paesi centrali europei anche in Italia. Eures non è monodirezionale, ovviamente voi fate anche un lavoro al contrario, cioè di fare in modo che le aziende italiane cerchino di attrarre profili stranieri. Questo quanto è difficile o quanto è facile? Diciamo che fino al 2007 avevamo alcune aziende che facevano anche ricerca di personale di medio-alto livello anche all'estero. Purtroppo con questa crisi si è un po' ristretto anche la richiesta, ed è sempre stata una richiesta, l'abitudine delle nostre aziende è sempre stata quella di trovare le persone dietro l'angolo dello stabilimento, no? Quindi questo però rischia di tagliarci un po' fuori da una dimensione europea del lavoro. Rischia di tagliarci fuori nel senso che, come è ben noto, le aziende per crescere hanno bisogno di una melting pot interna. Stazione di Padova, qui si conclude anche l'Euroreportage sul Nord-Est che oscilla tra europeismo ed euroscetticismo. Da questo Nord-Est vi abbiamo portato le voci delle imprese, dei cittadini, dei centri del lavoro, vi abbiamo raccontato come una fetta importante, un territorio importante della nostra Italia si sta preparando alle prossime elezioni europee, con quale spirito si sente europeo. Euroreportage in collaborazione con Euronet Plus.